Nella primavera del 2009 le loro strade si erano divise. Madoff ha preso la via della galera, dove deve scontare 148 anni di carcere, mentre Michalizzi quella della Bocconi, dove ha rioccupato al tempo pieno il posto di ricercatore che aveva. Ma ieri la Guardia di Finanza gli ha perquisito abitazioni, uffici. Michalizzi è infatti indagato per associazione a delinquere al fine di commettere truffe e aggravate. L'avventura è quella dei fondi Dynamic Decision, nata nel 2005 sotto i migliori auspici, e in questa lunga inchiesta, che trovate un'intera pagina del Sole a pagina 29, secondo Claudio Gatti si potrebbe, e secondo la Guardia di Finanza di Milano e quindi la Procura di Milano, si potrebbe nascondere una vicenda alla Bernard Madoff all'italiana. La trovate appunto sul Sole 24 Ore. Che dire, sono in rapida conclusione. Segnalo una storia da insulti e gossip a luci rosse a Trani, le toghe fanno a botte, una vicenda raccontata dal Giornale a pagina 15, ristorante di Sassari, luglio 2011, c'è uno 007, gli ispettori del Ministero della Giustizia che sta pranzando, arriva un altro, un magistrato donna, entra nel ristorante, lo prende a borsettate, procurandogli 17 punti di sutura. Che succede? Magistrato donna manda il collega all'ospedale, il CSM la trasferisce. È una vicenda di insulti, gossip, luci rosse, raccontata appunto da Gianmarco Chiocci sul Giornale oggi a pagina 15. 24 mattino. Eccoci, ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8:22. Nascerà allora il governo Monti questa mattina e poi otterrà la fiducia? Chi lo sa? Intanto, se c'è una forza politica che ha già detto chiaramente noi staremmo all'opposizione, questa è la Lega. Ne saluto un esponente, il sindaco di Verona, Flavio Tosi, ben ritrovato sindaco. Sì, buongiorno a voi. Allora, fa bene la Lega stare all'opposizione? Cosa non va bene di Monti? No, beh, allora non è cosa non va bene di Monti, nel senso che Monti è una persona preparata, competente, capace, non si discute sulla persona, sulla sua professionalità e capacità. E il punto è che nel momento in cui tu dai la fiducia vuol dire che condividi un programma di governo e ne condividi le scelte. Siccome non sappiamo esattamente quali saranno le proposte di Monti, che saranno necessariamente dolorose per il Paese, ma necessariamente perché devono essere, perché l'Italia è sull'orlo del baratro e quindi bisogna veramente riuscire finalmente a ridurre il debito pubblico con una serie di misure. Siccome ci sono varie ricette per arrivare a quel risultato, aspettiamo a vedere cosa propone, poi se propone delle cose condivisibili nulla vieta, anzi, che le si possa sostenere. Ci sta dicendo che non è scontata l'opposizione della Lega? Noi ci siamo semplicemente chiamati fuori dal punto di vista della fiducia, perché fiducia vuol dire condivido quello che farai. Dopodiché, se propone delle cose che possono essere condivise, le si sostiene senza nessun problema. Per esempio, cosa potrebbe essere condiviso da sostenere? Io guardo dal punto di vista, è un'analisi personale la mia, quindi vale quello che vale, però siccome bisogna trovare risorse aggiuntive, una patrimoniale sui grandi patrimoni secondo me sarebbe una cosa di assoluto buon senso, piuttosto che andare a colpire tutte le famiglie generalmente oppure tutti i comuni in maniera generica, come ha fatto anche Berlusconi, che ci ha creato grandi difficoltà perché noi siamo in difficoltà a fare i bilanci per l'ICI? L'ICI invece, la reintroduzione? Piuttosto la patrimoniale, sinceramente, perché l'ICI sulla prima casa era stata tolta in modo sbagliato, nel senso che era stata tolta ma poi rimborsata dallo Stato centrale, quindi era stato fatto dal punto di vista della procedura non era stata una cosa esattamente brillante, però il fatto che fosse giusto toglierla, quello sì, perché comunque che uno paghi una tassa sul beneficio che gli deriva da avere la prima casa, dall'abitazione che si è pure comprato, insomma, quella è sbagliato. Comunque lei dice no alla fiducia, però se facesse dei provvedimenti, se lei fosse in Parlamento, magari qualcosa tipo una dismissione importante del patrimonio dello Stato, un taglio reale alle spese dello Stato centrale. Cioè, sono alcune cose che se proposte non si vede perché non condividerle. In vista delle liberalizzazioni anche. Senta, ha sentito, la politica si mangia tutto, non si parla molto più di Berlusconi. Lei aveva detto in un'intervista doveva anche lasciare prima. Che ne pensa del ruolo di Berlusconi adesso? Adesso cosa farà Berlusconi sinceramente non è una mia preoccupazione, perché il segretario del PDL è Alfano, e quindi Bossi e la Lega sono, con lui si confronteranno. Non mi può dire, dopo 17 anni non è che Berlusconi sparisce così, cioè, mi stai dicendo che anche per Bossi l'interlocutore adesso è Alfano, cioè Berlusconi è cancellato? No, non dico che è cancellato, però insomma nei partiti ci si confronta fra segretari, poi se Alfano vuole avere la guida di Berlusconi, questa è una questione che a me non riguarda. Berlusconi, che ha fatto tante belle cose per il paese, avrebbe fatto una bella cosa per il paese anche dimettendosi 6 mesi prima, un anno prima, ma comunque è andata così. È andata così. Senta, intanto riapre il Parlamento della Padania, ma lei c'è in questa istituzione? Beh, diciamo che il Parlamento della Padania nasce come un laboratorio di proposte, perché ci si incontrano gli amministratori locali e i parlamentari, le regioni, i nostri amministratori regionali, quindi i vari livelli di governo per fare proposte operative. Quindi ci sono, perché appunto ha questo tipo di utilità. Beh, insomma, però è anche simbolicamente, insomma, in questo momento di la Lega va all'opposizione e riapriamo il Parlamento della Padania, sembra una sfida allo Stato, ecco. Non è una sfida, è un posto, un luogo dove si elaborano proposte da portare avanti, perché comunque anche stando fuori dal governo è opportuno fare delle proposte. Quindi va bene, quindi lei ci sarà, insomma, farà parte. Senta, la passione a questa idea Letta, Amato, sì, no, si vedrà alle 11, ci siano tutti i politici, tecnici, Secondo me nell'interesse di Monti, nell'interesse del paese, la cosa di gran lunga più opportuna è che non ci siano assolutamente politici all'interno del governo, perché per la figura di Monti, perché appunto è un tecnico, che il governo sia tecnico, perché diventerebbe un pasticcio se ci fossero i politici di tutte e due le parti, diventerebbe penso poco facile da gestire anche per lui, rischia di ingessarlo. Se li mette solo da una parte, ovviamente attaccabile dall'altra. Quindi per carità, io non è che posso dare consigli, no, certo, però lei dice vedrebbe tutti i tecnici. Io metterei solo tecnici, perché credo sarebbe molto più credibile e anche più forte, tutto sommato, a livello di raccolta del consenso in Parlamento. Se fosse solo tecnico avrebbe anche più chance. E questa idea invece della scadenza, io dico come la mozzarella, cioè deve andare puntare al 2013 oppure si deve andare a votare tra poco? Io credo che, allora, un discorso è l'auspicio, l'auspicio è quello di fare le cose in fretta e di andare a votare per tornare a rimettere una maggioranza politica, un governo politico, però capisco anche che siccome deve fare tutta una serie di cose importanti, di misure, io mi auguro che porti anche a termine l'iter per il federalismo fiscale, che venga rifatta necessariamente la legge elettorale, quella con la più ampia condivisione possibile, quindi comprendo anche che Monti ragioni su un termine più lungo. Per concludere, sindaco, in 30 secondi, tutto bene lei e la Lega, sì, cioè, ma dica la verità, ha temuto per un secondo che Bossi la volesse cacciare? No, perché no. Bossi è una persona vulcanica, privatamente... E quel tipo di, chiamiamoli così, vezzeggiativi, li usa, diciamo così, le ha dato dello stronzo, diciamo, sindaco, diciamo così, li usa, ma non lo conosco da 20 anni, non è un problema, non è, quindi... sono cose che si ricompongono senza guardandosi negli occhi. Allora, visto che è sdoganato, lo dica lei, chi è alla bossiana, alla maniera bossiana, secondo lei il più stronzo in politica in questo momento? Sono io, che così lo faccio tanto nessuno. La ringrazio, diplomaticissimo, la ringrazio, buona giornata al sindaco di Verona. Grazie. E allora tornerà oggi, è il momento di Monti, ci sarà il governo Monti, accetterà l'incarico dal capo dello Stato, ci sarà la lista dei ministri, otterrà la fiducia, ci saranno politici, Amato e Letta soprattutto, oppure solo tecnici, e poi che farà? Una bella patrimoniale, il ritorno dell'ICI? Ne discutiamo con Piero Stellino, editorialista del Corriere della Sera. Buongiorno Stellino. Buongiorno, buongiorno. Saluto anche il vice direttore di Repubblica, Massimo Giannini. Buongiorno e ben ritrovato, Giannini. Buongiorno a voi. Allora, Ostellino, che cos'è intanto un governo tecnico per lei? Un legittimo tentativo di salvare l'Italia in questo momento o un rischio, c'è il rischio, come lei ha scritto, di piegare le regole della democrazia? Beh, in realtà non è che il rischio di piegare le regole della democrazia. Mario Monti è un autentico e sincero democratico, quindi non piegherà proprio nulla. Le regole della democrazia sono già state piegate, cioè nel senso che c'era un governo che era certamente inefficiente, aveva tutte le responsabilità di non aver fatto le cose che aveva promesso, che è andato davanti al Parlamento con una legge di stabilità, ne ha ottenuto la fiducia e dopo aver ottenuto la fiducia se ne è andato, cioè si è dimesso, cosa assolutamente paradossale, in nessun altro paese succede una cosa di questo genere, ed è stato nominato senatore a vita all'improvviso, una degnissima persona, per farne il capo del governo. Però non c'erano più i numeri, Ostellino, anche il rendiconto dello Stato è passato con numeri... No, i numeri c'erano, perché altrimenti la legge di stabilità non sarebbe passata. Poi i numeri non c'erano, o meglio, si era dimostrato che c'erano più persone in Parlamento che non avevano votato il rendiconto dello Stato, sì, di quanto esatto. Lo avessero votato, che non era ancora una sfiducia al governo, era semplicemente un artificio procedurale messo in moto intelligentemente, per carità, dall'opposizione e legittimamente dall'opposizione, per far vedere che loro che non votavano il rendiconto dello Stato, che è un dovere del Parlamento, perché il rendiconto è il consuntivo finale e se non lo si vota si finisce in amministrazione speciale, quindi è stato un artificio, come dire, legittimo, ma contemporaneamente molto singolare quantomeno. Bene, è successo questo, e che cosa è successo? Che Berlusconi è stato spinto ad andarsene. Sì. Io non sono un ammiratore del governo Berlusconi, non l'ho mai votato, non l'avrei votato questa volta, insomma non sono un ammiratore. Ritengo che sia stato un pessimo governo, che non abbia fatto le cose. Però dice le regole fare. Della democrazia prevedevano. La democrazia c'è, cioè non possiamo farne a meno. Oggi io pubblico un articolo in prima pagina del Corriere della Sera che segue all'interno, in cui dico: noi viviamo in un paese dove la gente festeggia la caduta della dittatura di Berlusconi, contemporaneamente auspicando l'arrivo dell'uomo della provvidenza, del venir meno alle regole della democrazia perché la situazione è emergenziale, eccetera. Ma che razza di paese siamo? Cioè siamo un paese dove se chiamiamo il popolo a chiedere se vuole burro o cannoni, risponde cannoni. Ma risponde cannoni perché l'establishment, i giornali, gli intellettuali gli insegnano che spingono deve a questo, spingono cannoni. A questo. Vediamo se questo discorso, Giannini, Massimo Giannini, vice direttore di Repubblica, è un discorso, se si vuole, qualcuno dice un po' superato, nel senso che lo spread, questo Moloch, tutti gli italiani sono appesi adesso a vedere cosa fa questo spread con i Bund tedeschi. Cioè sono discorsi un po' superati quelli che fa Ostellino, nel senso che ogni ora si insegue una situazione di emergenza, oppure è un discorso ancora da portare avanti, come dire, insomma, le procedure democratiche che si sono in pratica un po' sospese con questo governo tecnico. Ma mi permetto di dire, con tutto il rispetto che ho per Piero Ostellino, che più che discorsi superati sono discorsi sbagliati. Provo a spiegare la ragione. Intanto una ragione di tipo tecnico, a mio parere, perché sostenere che la caduta del governo Berlusconi è avvenuta al di fuori delle procedure, diciamo così, democratiche, secondo me è un errore, oltre che una manipolazione della realtà dei fatti. Voglio ricordare che il rendiconto è stato rivotato due volte perché una prima volta il governo non aveva avuto i numeri per farlo passare, ed anche nella seconda volta nella quale il rendiconto è stato votato, con tutta evidenza, con 308 voti favorevoli e 322 sostanzialmente astensioni, si è dimostrato plasticamente e palesemente che la maggioranza non aveva più i numeri per andare avanti. Del resto questo era un fatto ampiamente dimostrato, al di là dei singoli episodi dei voti di fiducia, dagli oltre 94 volte che nel corso di questa legislatura il governo è andato sotto su leggi, emendamenti e provvedimenti di ordinaria amministrazione. Voglio dire che alla fine si è arrivati alle dimissioni di Silvio Berlusconi, che nessuno gli ha imposto, lui stesso alla fine deve essersi reso conto finalmente che il suo governo non poteva andare avanti, dopo una lunga fase nella quale almeno da un anno a questa parte, cioè dalla rottura con Gianfranco Fini, era dimostrato nei fatti che questo governo non reggeva più, e anche la stessa maggioranza alla fine non ha potuto che prenderne atto. Sì. Quindi dico questo per dire che tutto quanto è accaduto è avvenuto all'interno del patto costituzionale, delle regole del patto costituzionale. Ora però Monti che farà? Ci saranno, per venire a oggi, per esempio questa cosa dei politici, anche oggi Repubblica scrive che pare sia tramontata l'ipotesi di mettere Amato e Letta per i famosi veti incrociati, è giusto così? Tutti tecnici? Ma questo è un altro aspetto della questione, indubbiamente il ricorso ad un governo tecnico e formato solo da tecnici ha in tutta evidenza una componente di anomalia che può far pensare ad una sorta di sospensione delle regole della democrazia popolare per come le abbiamo conosciute in questi anni. E tuttavia bisogna tener conto che tutto questo accade di fronte ad una evidente resa della politica che ha manifestato la sua inadeguatezza non tanto e non solo rispetto alla offensiva dei mercati, ma proprio alla necessità di risolvere problemi oggettivi e concreti che il Paese ha di fronte e che il governo che ci ha finora guidato non era stato in grado di risolvere. Detto tutto questo, capisco da un lato la necessità e la volontà di Mario Monti di imbarcare anche esponenti della politica nel suo governo, perché naturalmente questo sarà un governo che sarà chiamato a fare scelte molto dure, perché di questo c'è bisogno. Quindi un appoggio politico ci vorrà. Chiedere una corresponsabilità dei partiti anche attraverso l'ingresso di loro esponenti nell'esecutivo era anche giusto e comprensibile. Tuttavia, se questo non è stato possibile, io credo che il ricorso ad un governo esclusivamente tecnico, anche se può far storcere il naso a qualcuno, però va accettato bene per quello che è. Su questo vediamo, non possiamo permetterci. Vediamo, altro. Prima di sentire il traffico, Ostellino, che ne pensa la questione? I tecnici possono arrivare laddove la politica ha fallito o è un'utopia? No, no, per carità, i tecnici possono arrivare ovunque. Io dubito però che ci arrivino, non perché non siano bravi i tecnici e non ci si provi magari Mario Monti, per il semplice fatto che i tecnici poi dovranno andare in Parlamento per ottenere un voto politico, del Parlamento. Certo, che è politico. E la verità nuda e cruda è che una grande parte del Parlamento, se non addirittura tutto, che in qualche modo rappresenta non il popolo nel suo complesso, il popolo che cosa fa? Si alza al mattino, va a lavorare, paga le tasse, torna a casa, guarda la televisione e non si pone grandi problemi. Le oligarchie invece i problemi se li pongono e le oligarchie sono in qualche modo rappresentate, ahimè, in modo occulto, non palese, in Parlamento. E poi dice, perché saranno, dice occulto? Saranno, perché dice occulto e non palese? Cioè i famosi poteri forti. Le oligarchie si devono vedere. Cioè si deve sapere che il partito tale o il gruppo parlamentare tal'altro rappresenta quegli interessi e non c'è nulla di male in una democrazia che gli interessi siano palesi, se sono ovviamente degli interessi sì, legittimi, certo, legittimi. Ecco. E quindi qui invece non si vede e poi si dice Monti sarà costretto a fare delle cose molto dure e io so quali saranno le cose molto dure. La patrimoniale, si chiederanno altri sacrifici agli italiani, cioè si prenderanno altri soldi dalle tasche degli italiani. L'ICI forse, l'ICI. Ma tutto quello che vogliamo, in ogni caso sarà sempre prendere dei soldi. Il problema invece è un altro, è quello di smontare uno Stato enorme, invasivo, che si porta via oltre il 50%. Ma guarda che forse Monti lo farà, è un liberale Monti, non ci crede. No, ma io non ne dubito, io di Mario Monti sono amico da 40 anni, quindi figuriamoci, lo stimo come persona e come intellettuale, ma non ce la farà lui, per il semplice fatto che non si vuole smontare questo Stato invasivo, costoso. Eccetera. C'è sempre l'interesse della politica. Come si può rilanciare l'economia di un paese quando oltre la metà della ricchezza prodotta dal paese viene requisita dallo Stato. Si fermi qui, devo dare le informazioni sul traffico. Voglio intanto salutare Antonio De Napoli, buongiorno. Buongiorno. Lei è buongiorno. Il portavoce del Forum Nazionale Giovani e con una mossa insieme alle donne Monti ha voluto incontrare le rappresentanti delle donne, del mondo delle donne e le rappresentanti del mondo dei giovani, voi. Allora, Antonio De Napoli, portavoce del Forum Nazionale Giovani, quanti eravate da Monti? Eravamo in quattro, eravamo la rappresentanza del consiglio direttivo della nostra piattaforma. Perché voi intanto? Qualcuno, perché hanno scelto voi per rappresentare i giovani? Ce lo spiega come nasce? Guardi, è stato molto semplice. Io ho appena saputo, diciamo, della consultazione con le parti sociali, ho avuto modo di chiamare la segreteria del senatore Monti, che però aveva, diciamo, già in lista, diciamo, il mio nome, la nostra sigla. E si è proposto, lei ha detto, perché no? Io chiedo sociale. No, il forum, diciamo, è 7 anni che esiste, è una piattaforma che associa organizzazioni giovanili, ad oggi siamo più di 80, di ogni colore politico, di ogni provenienza culturale. E il senatore Monti immagino che abbia studiato e forse è chiaro, però insomma può anche essere valsa l'autocandidatura, nel senso ci conosce, eccoci qua, ci proponiamo. E che vi siete detti? Che avete chiesto voi al professor Monti? Noi abbiamo fondamentalmente chiesto due cose. Il primo, un impegno sui temi che portiamo avanti e che appunto questo impegno da parte sua fosse continuato, non si limitasse unicamente, qualora appunto oggi dovesse andare come i giornali dicono, questo impegno potesse andare avanti in modo strutturato e continuo, in modo da poter effettivamente instaurare un rapporto di consultazione stabile. Sì. E la seconda cosa era quella che abbiamo fatto niente proprio di meno che una confessione, che il Toto Ministri, l'età media del Toto Ministri ci preoccupava molto. E lui che ha detto? Ma lui ha detto che sta lavorando a una squadra, adesso vedremo che cosa ci dirà. Sicuramente ha fatto presente che per il governo tecnico di transizione, chiamiamolo come vogliamo, deve presentare profili sicuramente di grande garanzia e di grandi competenze. Noi abbiamo sottolineato che questo esiste anche nel mondo giovanile, un mondo della ricerca, un mondo del no profit, il terzo settore a 360 gradi che esprime. Chissà, anche, magari vi ascolta, magari oggi nominerà il Jolly, no? Un giovane rispetto ai nomi che effettivamente, per carità, alti profili, però l'età sicuramente non è un'età molto bassa. Il discorso dell'età però dobbiamo sempre stare molto attenti, se no scadiamo veramente nell'autotutela, a priori, che non è il nostro caso. Noi abbiamo detto al professor Monti che la questione giovanile in Italia secondo noi non è una questione anagrafica, noi non abbiamo la presunzione di dire che siccome abbiamo 27 anni siamo migliori di un professore che ne ha 76. Non è questo il discorso, è che un pezzo di paese, un pezzo d'Italia purtroppo che ha pochissima voce in questo momento e che vive la crisi sulla propria pelle, che ha ereditato il debito pubblico e vive lo stage in condizione precaria, e questo pezzo d'Italia sarebbe bene che venisse rappresentato anche staremo a vedere. Intanto voi avete chiesto a Monti di essere continuamente tenuti in osservazione. Io vorrei tornare da Massimo Giannini. Senta Giannini, ha sentito anche Ostellino dire il problema è che Monti potrà voler fare quello che vuole, sarà un liberale convinto, fa le liberalizzazioni eccetera, ma quante volte le abbiamo sentite in realtà queste incrostazioni, dice Ostellino, dello Stato oppressivo, uso il suo termine, non riuscirà a farcela perché non è Mandrake. Ecco, questo è il problema, è Monti, non è Mandrake. Sì, questo è un rischio che noi effettivamente corriamo, però due notazioni rispetto a questo. La prima, dobbiamo partire dal presupposto che chi ha veramente fallito la rivoluzione liberale dopo averla promessa e aver costruito su quel messaggio il proprio progetto politico è stato Silvio Berlusconi e il suo governo, che ci consegna un'Italia peggiore di quella che lui stesso aveva trovato, non voglio dire 3 anni e mezzo fa, ma addirittura 17 anni fa quando è sceso in campo, perché se non le fa la destra liberale o liberista queste riforme, delle quali pure io sono convinto il Paese ha bisogno, mi chiedo a che cosa è servita tutta questa esperienza, se non a imprimere al Paese una declinazione, direi per alcuni versi. Ma perché ci dovrà riuscire o ci potrà riuscire ora Monti o chi verrà dopo di lui? Ci dovrà riuscire perché noi siamo davvero all'ultima spiaggia adesso, no? Noi siamo in presenza di una situazione nella quale non solo l'Italia, ma principalmente l'Italia, è esposta ad una ondata di speculazione, viene definita adesso in senso deteriore. In realtà i mercati funzionano come hanno sempre funzionato, cioè cercano di guadagnare e di lucrare denaro laddove ci sono punti di debolezza e opportunità. Questo è sempre accaduto, accade anche oggi, e però noi siamo in una situazione nella quale dobbiamo finalmente prendere di petto i nostri problemi. Io credo che Monti, rappresenti davvero in questo senso l'ultima spiaggia. Lui farà certo, capisco che questo possa rappresentare un problema. La patrimoniale, sulle tasse, no? La patrimoniale, si parla della reintroduzione dell'ICI. Io sono anche tra l'altro d'accordo con alcune di queste misure. La cosa fondamentale è che, sono due le cose fondamentali, la prima è che siano misure eque, cioè finalmente spalmate su tutto l'universo dei contribuenti e non concentrate solo su un'area. E l'altra cosa fondamentale è appunto che si intervenga in maniera seria, finalmente strutturale, su quelle voci di spesa che da sempre hanno rappresentato la spesa pubblica, certo. Devo finire qui, ringrazio Piero Stellino e Massimo Giannini, così come Antonio De Napoli, in redazione tutti ovviamente, da Alessandro Longoni, Elisabetta Fuscone, Viola Bottoni e il nostro alpino Peter Bescapè in regia. Andate su Facebook 24 Mattino e noi ci ritroviamo domani puntuali alle 7:20.